Come si presenta l'Italia a questo appuntamento così importante? L'Italia si presenta male a questo appuntamento, si presenta male perché malgrado abbia firmato tra i primi e poi ratificato insieme agli altri paesi dell'Unione Europea il protocollo di Kyoto, in questi anni, dal 1997 ad oggi, non ha fatto sostanzialmente nulla per ridurre le proprie emissioni di anidride carbonica, anzi in Italia le emissioni sono cresciute molto negli ultimi anni, sono cresciute dal 90 ad oggi di oltre l'8% e dunque a questo punto noi abbiamo pochi anni da qui al 2012 per percorrere un tratto di strada molto lungo. Dobbiamo ridurre di circa il 15% le nostre emissioni in soltanto 8 anni. Qual è la strategia che sta adottando il governo? Il governo italiano, dal punto di vista delle politiche concrete, non sta seguendo delle strategie per centrare l'obiettivo di Kyoto. Le strategie per centrare l'obiettivo di Kyoto sono molto semplici, sono essenzialmente due. Da una parte si tratta di ridurre i consumi di petrolio migliorando l'efficienza energetica nei vari campi, dai trasporti agli usi domestici, all'industria, e dall'altra si tratta di sviluppare le fonti energetiche rinnovabili. Su entrambi questi fronti l'Italia è ferma. Pochi anni fa eravamo tra i paesi europei più efficienti dal punto di vista energetico, cioè tra quelli che per unità di PIL consumavano meno energia. Oggi abbiamo perso questo primato perché non abbiamo scommesso, puntato sull'innovazione tecnologica, non abbiamo per esempio favorito la diffusione nelle abitazioni di tecnologie innovative come le caldaie a condensazione o come le lampadine ad alta efficienza. Continuiamo ad avere un sistema dei trasporti largamente dominato dal trasporto su strada, che di tutte le modalità di trasporto è quella che consuma più energia, che inquina di più, e quindi il bilancio che si può fare a questo punto è molto deludente e chiama il nostro paese ad uno sforzo davvero grande per riempire questo ritardo. Si tenga conto che ci sono paesi europei come la Germania, come il Regno Unito, come i paesi scandinavi che in questo stesso lasso di tempo in cui l'Italia vedeva crescere le proprie emissioni, le emissioni le hanno tagliate. In Germania sono scese di quasi il 20%, nel Regno Unito anche persino in Francia sono scese, anche se di una percentuale più bassa. Noi invece siamo in controtendenza e quindi adesso che il protocollo di Kyoto finalmente diventa una legge, dobbiamo davvero recuperare moltissimo terreno perduto. Invece l'Europa come si presenta a questo summit? L'Europa si presenta potendo incassare un grande successo di immagine diplomatico, è grazie alla tenuta dell'Unione Europea nella difesa del protocollo di Kyoto, anche nel momento in cui gli Stati Uniti se ne sono chiamati fuori, che alla fine la Russia ha accettato di ratificare il trattato. E dunque l'Europa oggi ha tutti i titoli per proporsi come la punta più avanzata dell'impegno per fermare i mutamenti climatici, che non sono più una minaccia ma sono ormai una realtà. Lo vediamo dalla desertificazione che avanza nei paesi poveri e che comincia a toccare anche regioni dai climi temperati come il sud dell'Italia, lo vediamo dal moltiplicarsi degli eventi meteorologici estremi, gli uragani di questi mesi che hanno colpito le coste degli Stati Uniti e poi i Caraibi. Questa è davvero la più grande emergenza non solo ambientale di questo inizio di secolo e di millennio. La comunità internazionale deve trattarla come si tratta un'emergenza, concentrando su questo terreno tutti gli sforzi delle politiche energetiche, delle politiche ambientali, ma anche delle politiche economiche. Cambiare il sistema energetico oggi non è soltanto una necessità per fare fronte a al mercato del petrolio, che è sempre più instabile, sempre più condizionato dalle scelte di un pugno di paesi produttori e delle multinazionali del petrolio, è anche un imperativo se si vuole, insomma, salvare il futuro dell'umanità. Quindi l'Italia ancora una volta deve allinearsi all'Europa. A luglio, se non sbaglio, ha presentato all'Unione Europea il suo piano energetico. Che fine ha fatto? È stato criticato dall'Unione Europea per vari aspetti, è un piano che non dice con chiarezza quali risorse finanziarie il nostro Paese intende mettere in campo per raggiungere gli obiettivi che sono scritti nel protocollo di Kyoto. È un piano troppo generico. Nel frattempo in Italia le uniche politiche energetiche che davvero vanno avanti sono la costruzione di tante nuove centrali termoelettriche o addirittura la riconversione di centrali elettriche a carbone, e il carbone, oltre a essere un'energia dell'Ottocento, quindi non certo del futuro, è di sicuro quella che pesa di più sul rischio climatico. Bruciare carbone è l'impiego energetico che produce più emissioni di anidride carbonica. Cosa vi aspettate da questo summit? Noi ci aspettiamo un rilancio. A questo punto il protocollo di Kyoto sta per diventare una legge internazionale, bisogna però cominciare a guardare anche a dopo il 2012 agli ulteriori passi da compiere. Gli obiettivi fissati nel protocollo di Kyoto non sono sufficienti per arginare i mutamenti climatici, bisogna compierne degli altri di passi, bisogna davvero porsi come prospettiva, come obiettivo strategico, quello di uscire dall'era del petrolio. Il petrolio ha segnato nel bene, sicuramente nel bene, ma anche nel male, il secolo appena trascorso, appena finito. Per il petrolio si sono fatte guerre, si continuano a fare guerre, il petrolio ha certamente consentito a una parte importante dell'umanità di migliorare moltissimo il proprio benessere. Adesso il petrolio va gradualmente, certo, ma progressivamente messo da parte, perché non risponde più alle esigenze del presente. Bisogna invece puntare su altro, puntare sul risparmio energetico, sull'innovazione tecnologica, sulle energie pulite, dal solare all'eolico. Il petrolio, come il carbone, come il nucleare, in misura ancora più evidente, sono energie del passato e quindi vanno trattate come tali.